Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera a voi tutti da Maurizio Melis. Immaginate di andarvene in giro per una città che non conoscete con un paio di occhiali smart. Puntate gli occhi su un monumento ed ecco che nel vostro campo visivo compaiono scritte che vi dicono di che monumento si tratta, chi l'ha progettato, eccetera, eccetera. È un esempio di realtà aumentata, cioè di come sia possibile sovrapporre informazioni virtuali a un ambiente o a una situazione reale. La realtà aumentata si sta diffondendo soprattutto in ambito professionale, per esempio per guidare un tecnico in una manutenzione o nel montaggio di aggeggi particolarmente complessi come macchinari industriali, motori di aerei o roba del genere. Ma c'è chi sta lavorando a renderla un'esperienza normale anche tra le mura di casa, come Experenti, startup che ha messo a punto una piattaforma tecnologica di realtà aumentata per il mondo del commercio, di cui ci parla Amir Baldissera, socio di Experenti, che ho incontrato settimana scorsa a Smau. Sentiamo. Immaginate allora di voler acquistare una stufa, voler vedere come sta a casa vostra, ma non aver la possibilità ovviamente di portare tutte le stufe che potete che potreste scegliere in casa vostra. Evidentemente. In questo caso voi potete stampare un tag, un normalissimo foglio A4 con la vostra stampante a getto d'inchiostro, appoggiarlo per terra, inquadrarlo con il tablet e il mobile magicamente apparirà davanti a voi direttamente sul vostro tablet. Potrete consultare tutto quanto il catalogo del produttore, cambiando i modelli, vedendo i modelli in scala reale. Ecco, ma soprattutto è questo il punto: vedete effettivamente quale sarà l'ingombro, cioè attraverso il tablet voi vedete come sarà quell'oggetto dentro, come sarà l'ingombro, come sarà la resa estetica, come saranno i colori rispetto ai vostri colori dell'ambiente. Ci si può addirittura girare attorno e lui cambia, no? Ci si può eventualmente interagire, aprire le ante, vedere come è fatto all'interno. Perfetto. Avere la profonda percezione di come starà quell'oggetto all'interno. Quindi, insomma, della propria casa. Comprare una lampada piuttosto che un intero armadio e vuole vedere come sta nell'ambiente di casa sua, basta un foglio A4 con questa stampa che viene riconosciuta dal tablet e a questo punto è come se spuntasse da questo foglio l'oggetto in questione. Lo vediamo nel suo ambiente. Lo vediamo nell'ambiente di casa mia, come appare, eventualmente anche con la possibilità di poterci interagire, scattarci una foto per mostrarla agli amici per vedere se quel mobile sta bene in casa mia o meno, o piazzare l'ordine direttamente all'e-commerce. Ecco, un altro concetto interessante su quale state lavorando riguarda tutti i manuali di istruzioni, i libretti delle istruzioni, eccetera, eccetera. Ecco, la realtà aumentata diventa un modo per trasformarci tutti un po' in dei tecnici. Infatti. Ecco, spiegaci un po'. Anche in questo caso, cambiamo lo scenario. Immaginiamo una stampante. Ho acquistato una stampante, si è rotta. L'ho acquistata 2 anni fa, il libretto di istruzioni chissà dove è finito. Come posso andare a intervenire senza perdere tempo a chiamare i call center, eccetera? Basta aprire la stampante, inquadrare di nuovo con il tablet o lo smartphone un tag posto appositamente dal produttore, in questo caso ci deve essere questa stampante, lo inquadro e comparirà un video con il tecnico, la signorina del call center, che mi dirà: buongiorno, sono il sistema di assistenza remoto del brand X, so già che la sua stampante è un modello XY perché lo sta riconoscendo dal tag. Che problema c'ha? Compariranno dei tasti che permetteranno all'utente di andare a descrivere il problema, a spiegarlo in funzione delle scelte effettuate dall'utente nella descrizione del problema. Il video accompagnerà l'utente verso la soluzione del problema. E qui la forza sta nel fatto che, invece di cercare di capire ma qual è quel tasto, il numero 12 del libretto delle istruzioni, ci sarà semplicemente, guardando dentro al tablet, una freccina che indica: togli questo, schiaccia questo, esatto, sposta questo, apri il cassetto. Non ho il rischio di perdere il manuale, perché diventa l'oggetto fisico, la stampante stessa, il manuale stesso. Non ho la difficoltà di dover interpretare il manuale, perché mi accompagnerà indicandomi con dei puntatori in 3D dove devo andare ad intervenire. Stesso discorso dicevamo per i libretti, per esempio, di istruzioni dei farmaci, no? Che anche lì, insomma, è abbastanza facile perdersi. Anche in questo caso con i farmaci, ovviamente i farmaci di automedicazione, ecco, o di parafarmacia. Diciamo in generale che questi programmi non devono trasformarci in qualcosa che non siamo. Ci devono aiutare a fare quello che è già previsto che come persone comuni facciamo. Ma in questa maniera ci possono ulteriormente aiutare a non correre rischi con quei farmaci, perché come funziona? Lo inquadro, che succede? Inquadro direttamente la scatola del farmaco e in questo caso mi comparirà un video con la farmacista, il medico, che mi spiega le 5 informazioni salienti e rilevanti di quel farmaco, eventualmente accompagnandomi, ponendomi delle domande per capire il sesso, l'età, la problematica, eccetera, accompagnandomi. Se è il caso che lo utilizzi, per esempio un dosaggio che in alcuni casi bisogna calcolarsi da sole, magari si può rischia anche di sbagliare i conti. E in certi casi anche evitare problemi, quindi se la febbre è troppo alta, se l'età del paziente è troppo bassa, eccetera, fermare tutto e dire no, questo non è il farmaco adatto, vai dal medico perché è il caso che ci sia un consulto medico. E poi si può anche spiegare come mettersi un fardo o un rossetto, insomma, voi lavorate anche su queste cose. Va bene, grazie Amir Baldissera. Grazie a voi. Torniamo in studio solo per salutarci, darci appuntamento a domani. Vi ricordo che potete scriverci a smartcity@radio24.it. Mi trovate anche su Facebook col mio nome Maurizio Melis. A voi tutti buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.